Italia in controluce. Italia in controluce, buongiorno da Vincenzo Miglietta. La cronaca oggi in primo piano nel nostro approfondimento. Nuovo episodio che coinvolge la scuola materna. Questa volta è accaduto a Roma in zona Tiburtina. Sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamento e percosse un insegnante e la coordinatrice della scuola dell'infanzia, coinvolti bambini di 4 e 5 anni. Secondo le prime ricostruzioni, che sarebbero avallate dalle immagini delle telecamere interne, erano frequenti umiliazioni verbali verso gli alunni con difficoltà psicoinfantili e anche i bambini relativamente più grandi sarebbero stati usati come capo contro i diversi. Ai nostri ascoltatori chiediamo allora se qualcosa sta cambiando nel rapporto tra adulti, insegnanti, piccoli alunni, se di fatto tramonta secondo voi il mito della scuola come luogo sicuro per i bambini o se fatti di cronaca come questo sono eccezioni. Potete mandare i vostri sms al 349-238-6666. Ma prima di andare alla scuola San Romano con la nostra collega Alessandra Schepisi facciamo il punto da una voce ufficiale che ha condotto le indagini. Ascoltiamo allora l'intervista realizzata da Cristina Carpinelli con il dottor Adriano Lauro del commissariato di polizia di San Basilio che ha condotto le indagini. Ascoltiamo. C'è stata la segnalazione di qualche persona, diciamo, all'interno della scuola, docenti e non docenti, che ci hanno informalmente riferito quello che stava accadendo e quindi ci siamo attivati. Ecco, come vi siete attivati, per spiegarlo anche ai nostri ascoltatori? Avete messo delle telecamere? Sì, abbiamo fatto un appunto al pubblico ministero che ha preso il coordinamento delle indagini, il dottor Eugenio Albamonte, che con il quale appunto su sua indicazione abbiamo predisposto, oltre a sentire alcune maestre e altre persone non docenti, abbiamo poi ritenuto per riscontrare queste versioni di mettere delle telecamere con cui abbiamo verificato effettivamente la veridicità di quanto riferito. Una volta che abbiamo riscontrato che quanto riferito corrispondeva a realtà, il PM ha chiesto al GIP con urgenza il provvedimento e sono state emanate le ordinanze di custodia cautelare. Questa indagine quanto è durata? Diciamo sui tempi non sono stati molto lunghi, vista la necessità di tutelare i bambini, per cui il GIP, la dottoressa Lamborelli, ha messo subito il provvedimento. A questo proposito noi invitiamo tutte le persone a fare sempre denuncia di questi fatti, perché non possono essere sottaciuti a tutela dei bambini. Questa è una cosa molto importante e comunque appunto voi vi attivate sempre, verificate sempre le cose, questo certo, per far capire anche appunto ai genitori e agli insegnanti di non essere reticenti. Certo. E una cosa che le volevo chiedere, poi la faccio andare, avete anche parlato con i genitori dopo oppure questo è un compito che riguarda qualcun altro? Adesso le indagini coordinate sempre dal PM continueranno sentendo altri insegnanti e altri genitori. Qualche genitore per esempio già aveva spostato il figlio, ma secondo me appunto non basta spostare il figlio dalla scuola, ma bisogna denunciare questi episodi. Ci può raccontare che cosa nello specifico facevano queste persone ai bambini, giusto per far capire appunto? C'era la maestra che appunto ricorreva ad atti di violenza, tipo a volte tirava i capelli, ricorreva a percosse, a volte utilizzava altri bambini più grandi per percuotere a modo di punizione i bambini più piccoli, spesso anche i bambini con disagi psicofisici. E tutto questo la direttrice è responsabile perché ha coperto questa attività nonostante le denunce di altri insegnanti e anche persone non insegnanti, ha fatto un muro di omertà intorno a questa vicenda. Queste le parole dunque del dottor Adriano Lauro del commissariato San Basilio che ha condotto le indagini al microfono di Cristina Carpinelli. Abbiamo ascoltato Lauro dare indicazioni anche ai genitori di prestare in generale massima attenzione. Abbiamo ascoltato quindi l'evoluzione delle indagini. Ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666. Tutti i luoghi istituzionali in cui sono presenti minori devono essere videosorvegliati, gli abusi ai minori creano mostri, scrive un nostro ascoltatore. Ma andiamo ora davanti alla scuola San Romano, dicevamo zona Tiburtina, sud-est di Roma, zona decentrata ma non di estrema periferia. È con noi la nostra inviata Alessandra Schepisi, allora in questo momento ancora non l'abbiamo, Alessandra Schepisi che sappiamo è stata questa mattina davanti alla la scuola San Romano, l'abbiamo ascoltato anche durante il nostro giornale radio. Allora vi do conto di quanto affermato dal sindaco di Roma Alemanno: si tratta di un caso gravissimo sul quale mi auguro gli inquirenti facciano immediatamente luce. Lo ha detto Alemanno: noi faremo il possibile per sapere come sono andate le cose e se sono confermate. Bisogna dare una reazione molto forte, perché non è pensabile che si usino strumenti coercitivi di questo genere in una scuola materna, ha detto ancora Alemanno. È un episodio totalmente intollerabile, io sono dalla parte di tutte le famiglie romane e garantisco la qualità del servizio delle scuole materne romane, ha detto ancora il sindaco. In attesa di collegarci con Alessandra Schepi, allora potremmo ascoltare le testimonianze che la stessa Schepisi ci ha inviato poco fa prese davanti alla scuola materna San Romano. Ascoltiamo dei genitori. No, e questo è il bello, che non avevamo sentito niente, perché la scuola comunque è una scuola pubblica che è abbastanza, diciamo, un fiore all'occhiello, diciamo. Ecco, io sono anni che porto i miei figli a questo asilo, dal più grande che sta alle elementari, ci ho portato la più piccola, ci sono stato io a questo asilo 40 anni fa e non ci aspettavamo mai un evento simile. Quello che è poi giustamente le voci di corridoio è che sono stati maltrattamenti di minori da parte. Questo l'avete saputo oggi? L'abbiamo saputo oggi tramite notiziario, la scuola non ha divulgato nulla. Lei non aveva sentore di nulla? Assolutamente no. Assolutamente no, e non voglio assolutamente dire nulla né in positivo né in negativo finché non vedo. Vedrò il video e saprò giudicare o meno. Da in questo momento non c'è nulla, nessuno di noi ha avuto sentore mai di nulla, non c'è mai stato nessun motivo di poter, neanche, né tantomeno i bambini più grandi in grado di parlare, hanno mai manifestato nessun disagio. A me risulta che nelle altre inchieste o nelle altre cose comunque i bambini si erano lamentati, avevano manifestato un disagio, qui nessuno l'ha mai fatto. Che poi magari possa essere successo qualche volta che una maestra abbia detto a un bambino ah fai questo, fai quest'altro, o abbia urlato, succede tutti i giorni, lo facciamo noi con i nostri figli. Cioè. Quindi voi siete caduti dalle nuvole, cioè avete appreso questa cosa dal telegiornale? Qualcuno dal telegiornale stamattina chi l'ha visto, e gli altri qua da appena venuti a scuola. Con tanto di due volanti di polizia. E quindi voi giustamente volete vedere i filmati perché volete capire. Non mi sembra che sia un diritto vedere il filmato, ma prima noi, prima che passi in TV, perché qui si rischia che già stanno in video, cioè già stanno in rete e noi non sappiamo niente. E qui si sta parlando dei nostri figli, dei bambini. Mi sembra assurdo che, insomma, che prima vedano gli altri non interessati e poi noi che siamo diretti interessati. È ovvio che uno si augura di dire oddio, forse questo l'avete interpretato male, quest'altro così. Queste interviste realizzate da Alessandra Schepisi di fronte alla scuola San Romano. Sentiamo la preoccupazione di tanti genitori perché vi sia permessa la visione dei filmati che in base ai quali sono scattate i domiciliari per l'insegnante, per la coordinatrice della scuola dell'infanzia della scuola, ricordiamo, San Romano in zona Tiburtina. Dai vostri sms vedo che i giudizi sono molto divisi tra loro. Non alimentiamo paranoie, scrive un nostro ascoltatore, e poi non scherziamo, per favore date i numeri di bimbi e insegnanti e i casi, scrive Fabio. Io interpreto il suo sms come a dire evidentemente questi sono numeri molto limitati, ma c'è invece chi si preoccupa, non sono eccezioni questi fatti, scrive un papà di Milano, nascono asili per fare soldi e non per amore verso i bambini, assumono persone non qualificate per pagarle poco. Sono Paolo da Pescara. La violenza contro i bambini, queste maestre fanno danni alla personalità. E chiamo da Bergamo, ho riscontrato in diverse occasioni che le scuole pubbliche di Bergamo, essendo dotate e monitorate di filmati, sono tutte all'altezza. Ecco, un altro ascoltatore: ma con i problemi che ci sono in Italia c'è da dare tanta importanza a una cosa del genere? Questa è un'accusa verso noi, verso i giornalisti, ma noi facciamo i giornalisti e riportiamo fatti. Questo è il fatto di oggi, lo ricordiamo, un episodio di cronaca ad una scuola romana, vittime dei bambini, siamo ancora sulla presunzione dei fatti. Italia in controluce allora si ferma qui, è tutto, un saluto da Vincenzo Miglietta.